Sì, appunto, come dicevo, tornando in diretta lo ribadisco, un po' in anticipo la pubblicità delle 8, sono le 7.55 di questo giovedì 23 maggio per doppio appuntamento. Partiamo riprendendo la puntata precedente e lo faremo con la voce di Maria Luisa Pacelli, che ha dato ampio approfondimento per gli incontri che si terranno in Pinacoteca. Inizierà oggi stesso un nuovo motivo per conoscere la figura di Francesco Arcangeli, qua introdotto da Iadranca Bentini, curatrice degli incontri, di cui abbiamo portato insieme a Lorenzo Pauri un piccolo estratto. Continueremo a seguire per quanto riguarda questo valore aggiunto nella Pinacoteca della nostra città, molto importante. Arcangeli può essere considerato un maestro complementare a Roberto Longhi. Negli anni del suo insegnamento alla Cattedra di Storia dell'Arte dell'Università di Bologna non c'è limite alla genialità intuitiva di Arcangeli, che svelava l'opera d'arte attraverso una ricerca in cui la componente emotiva riveste un ruolo importante, traducendola in una prosa di autentico pathos senza distinzione fra critica e poesia. Poeta in versi e prosa, sempre Francesco Arcangeli, di colori densi ma a tratti splendenti, di ritmi insieme gravi, non pacati, liberi, aperti, come dire accesi, dirà di lui l'amico Attilio Bertolucci, riferendosi anche alle pagine di Critica d'Arte. Questo è un incipit curato da Iadranca Bentini, che, come ho detto, sta portando in Pinacoteca la rassegna di incontro. Ad esempio, giovedì 30 maggio ne porteremo un estratto nella prossima puntata della rubrica In Mostra, una gloriosa gara dato l'oratorio di San Colombano, e ne avremo motivo a sua volta di portarne in frequenza una sintesi. Comunque, vi dicevo, di oggi, con la presentazione ufficiale, la curatela della direttrice Maria Luisa Pacelli, con la collaborazione di Grazia Agostini, un percorso all'interno del museo che pone l'opera, che pone l'attenzione sulle opere e gli artisti scelti da Arcangeli per la mostra Natura ed Espressione, tenuta nel quadro delle Biennali d'Arte Antica presso il Palazzo dell'Archiginnasio nel 1970. E appunto, come ho detto, da qui vorrei partire, da questo brevissimo estratto dall'intervista portata con Maria Luisa Pacelli già dalla puntata precedente, che però darà poi il via a quello che sarà, con un'altra prestigiosa sede espositiva, il Mambo, un complemento a questa figura che dir poco importante. Sentiamo le parole della dottoressa Pacelli. Il 23 maggio invece presentiamo un percorso, un itinerario all'interno del museo, che ho curato assieme a Grazia Agostini. Grazia Agostini è una storica dell'arte che è stata funzionaria del Ministero della Cultura e ha lavorato nella Sovrintendenza di Bologna per molti anni, e quindi anche lei conosce benissimo questo patrimonio e conosce Arcangeli. E abbiamo riprodotto in qualche modo all'interno del museo una mostra molto importante che Arcangeli curò nel 1970 e che racchiuse, diciamo, gli studi fatti nel corso di tanti anni. Questa mostra si intitolava Natura ed Espressione, e l'itinerario accompagna il visitatore all'interno di questa mostra attraverso le opere che erano allora e che sono tuttora della Pinacoteca. Attraverso questo itinerario si incontreranno le parole di Arcangeli legate a queste opere e si capirà qual era, diciamo, questa interpretazione dell'arte emiliana e bolognese che Arcangeli sviluppa negli anni in cui studia appunto l'arte di questo territorio. Thank you. Percorso in Pinacoteca si snoda, attenzione, da Vitale da Bologna a Giorgio Morandi, e qui ci colleghiamo con il Museo di Arte Moderna, a breve con il complemento a questa conversazione, visto che la curatela è sia della Pinacoteca che del Museo di Arte Moderna, il Mambo, e a breve avremo anche la voce di Lorenzo Balbi. Quindi il percorso da Vitale da Bologna a Giorgio Morandi, presente in uno dei dipinti esposti nella mostra del 1970, Natura ed Espressione, e oggi incomodato presso il Museo Morandi. Le opere saranno poi introdotte, accompagnate grazie a particolari didascalie collocate per l'occasione. Metronome Jazzman. Now let's introduce these men to you, because they're the men you voted for. First, Pat Navarro, trumpet. Charlie Parker, alto sax. John LaPorta, clarinet. Alan Eager, tenor. Billy Bauer, guitar. You heard Lenny Tristano on that piano before, that's Billy Nuff. Tommy Potter on the bass. And in that corner is Buddy Rich on the drum. That's a lineup, and of course it's going to be Sarah Vaughan, whom we'll meet later. I think we've got a very great treat in store for us. Every once in a while, a very great singer comes up, and I know the adjective great has been much abused in jazz, but I don't think this is an instance of it. When you hear Sarah Vaughan sing Everything I Have Is Yours, with the rhythm section, Lenny Tristano, Billy Bauer, Tommy Potter, and Buddy Rich behind her, I think you'll see how well-deserved great is for this singer. You Beh, direi che è una presentazione che si snoda nel tutti i tempi. Abbiamo terminato quello che è stato un estratto della puntata precedente con Maria Luisa Pacelli, accompagnata dal techno di Apparat, arrivando poi così a passo a spalle indietro, se vogliamo, con un All-Star Game. Vi ho citato Vitale da Bologna fino a Giorgio Morandi, per cui anche tutti i tempi nell'arte, come ho voluto portare tutti i tempi nel jazz. È stato presentato da questa voce Lenny Tristano, Billy Bauer, grandissimo chitarrista. Questa che state ascoltando è la voce di Sarah Vaughan in un capolavoro, The New Sound in the 40s, with Lenny Tristano, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Fats Navarro and others. I would gladly give the sun to you and the stars that shine. Everything that I possess. E come ho detto, per dare completezza questa mini rassegna che con Radio Città Fujiko insieme a Pinacoteca Nazionale di Bologna e il Mambo, sempre per la nostra città, per portare una totalità sia nel tempo che nell'importanza del protagonista Francesco Arcangeli, sentiamo anche Lorenzo Balbi. Allora, ci tengo a dire intanto che questo è un tributo dovuto a uno dei protagonisti della scena artistica, ovviamente bolognese, ma italiana in senso generale. Proprio anche l'aspetto su cui vogliamo riflettere a Mambo, insieme alla Pinacoteca, al Museo Morandi, è quello di un critico d'arte che ha fatto molto di più critico d'arte, e il lavoro, l'impegno di Francesco Arcangeli è riuscito proprio anche nel progredire in una figura di professionista dell'arte che andava oltre le sue ben note capacità di critico e di teorico, e investivano anche la sfera del management, diremmo oggi. Francesco Arcangeli è stato uno dei primi critici e storici dell'arte in Italia a dimostrare come una figura professionale che riuscisse a coniugare un'altissima conoscenza storico-artistica con delle capacità anche manageriali di gestione delle istituzioni sia fondamentale nel panorama, diciamo, istituzionale non solo di una città, ma anche in generale delle istituzioni culturali nazionali. Quindi su questo aspetto preciso del lavoro di Arcangeli ci interrogheremo e daremo spazio nelle nostre sedi, sia appunto per Mambo che per il Museo Morandi, proprio anche sottolineando il ruolo che Arcangeli ebbe come direttore della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, quando ancora in realtà la Galleria d'Arte Moderna di Bologna come edificio non era ancora stato realizzato, perché come sappiamo la GAM di Bologna viene inaugurata il 1° maggio del 1975, ma l'istituzione esisteva già, aveva dei luoghi espositivi, che spesso era il Museo Civico Archeologico, lo è stata Villa delle Rose, e Arcangeli era il direttore di questi, diciamo, potremmo definirli proto-GAM di Bologna, ed è stato veramente lungimirante sia nel definire quali sarebbero stati poi le linee guida di questa istituzione, sia nel dotarla di una collezione molto importante che avesse in sé un discorso di approfondimento sul territorio, ma un'ambizione nazionale e internazionale. E Arcangeli è stata una figura chiave proprio nel gestire questa partita, e noi vogliamo omaggiare questo suo lavoro anche mostrando al pubblico molti di quelli che sono i capolavori che grazie a lui sono entrati nel patrimonio pubblico della città di Bologna. così ho voluto mettere assieme il produttore tedesco Apparat con Gil Evans. Perdonate queste mie improvvisate incursioni in remix qua dal vivo in studio per il Breakfast Club, ma la rubrica in mostra, come ben sapete, può portare anche di queste sorprese, sperando di far cosa gradita. Where Flamingos Fly, il brano che stiamo ascoltando, dove volano i flamingos, fenicotteri rosa, sono opere d'arte in natura. Natura ed espressione, mi rifaccio anche alla mostra degli anni 70. Il volo dei fenicotteri, e beh, fenicotteri rosa danno un'immagine, oltre che cromatica, di motilità, di un'armonia poetica incantevole. Hanno questa sorta di onda come un oscilloscopio, no? Sembra prima un atterrare, poi riprendere il volo e nuovamente reiterare questa sensazione in un processo, in un percorso che arriva in quota distendendosi completamente. Beh, molto spettacolare tutto ciò, microsensazione continua oltre che bellezza intensa. Il brano è portato dall'orchestra di Gil Evans, Where Flamingos Fly. Orchestra portata da Gil Evans nel disco storico Out of the Cool troviamo Ron Carter al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria, per dire alcuni dei nomi presenti in questa formazione stellare. Abbiamo introdotto anche con Lorenzo Balbi, come vi ho detto, tra Pinacoteca e Mambo per la figura di Francesco Arcangeli. Quest'oggi a breve, esattamente alle 10.30, vi sarà ufficialmente, quindi in contemporanea con il Breakfast Club, la presentazione e i percorsi, ma ho voluto, non dico estorcere perché è una bruttissima parola, anzi ringrazio il direttore del Mambo per questa anticipazione, ma portare alcune opere in mostra per quanto riguarda il Museo di Arte Moderna. Ad esempio, alcuni di questi capolavori possono essere svelati? Assolutamente sì, sono tantissimi. Noi qui a Mambo avremo appunto già con apertura dal 23 di maggio un percorso che coinvolgerà sia la collezione permanente del Mambo con capolavori come il celebre lavoro di Burri che abbiamo in collezione, tutti i lavori sull'informale, fino ovviamente ad arrivare a Giorgio Morandi, che Francesco Arcangeli insieme ad altri critici come Longhi contribuì a inscrivere come uno dei protagonisti dell'arte non solo italiana del Novecento. Quindi abbiamo provato insieme alla Pinacoteca a fare una cosa che è un po' impossibile, però ci ha divertito molto, come sarebbe una visita guidata fatta nel 2024 da Arcangeli. Come possiamo cercare di far vivere ai visitatori dei prossimi mesi dei nostri musei la possibilità di avere una visita guidata alle nostre collezioni fatta da Arcangeli. E quindi siamo andati, grazie alle curatrici, curatori che lavorano nei nostri musei, a cercare quegli stralci di testo, quei testi di scritti di Arcangeli che insistono su particolari opere che appunto grazie a lui sono entrati nelle nostre collezioni o che grazie a lui hanno avuto anche una collocazione all'interno dei nostri spazi. E questi testi sono stati riproposti con delle didascalie apposta, per cui il pubblico nei prossimi mesi potrà venire e avere una sorta di visita guidata ai nostri spazi, alle nostre collezioni, con le parole di Arcangeli. Beh, io la trovo un'iniziativa che, oltre a mettere insieme due importantissime sedi espositive, e non solo per la nostra città, per riportare una figura e darle quella luce e quella possibilità di divulgazione che diventa tutti i tempi. Grazie al direttore del Mambo, Lorenzo Balbi, avremo altri motivi di incontro. Momentaneamente, buona giornata. Grazie William, grazie a tutti, buona giornata. Seguite anche il Breakfast Club nel giovedì in mostra per questi incontri e per questi percorsi in contemporanea con Pinacoteca e Mambo. Sono le 8:19, la musica intersezione continua visto che è tutti i tempi, con le produzioni ambient e techno di Apparat, con le sonorità di un All Star Game che è stato presentato in precedenza fra Lenny Tristano, Charlie Parker, la voce di Sarah Vaughan per un breve tratto. Abbiamo anche ascoltato ora Left Alone, capolavoro di Eric Dolphy, tratto dal disco Far Cry. Lo ascoltiamo al flauto traverso, un'interpretazione struggente quanto bellissima. Un po' di musica, pubblicità, poi si ritorna in diretta per la seconda parte in mostra. Bologna Estate Certosa 2024, di solito in scena. Quest'oggi, anzi, questa edizione che è la 16ª, sarà in mostra e ne scopriremo con Roberto Martorelli anche il giusto motivo per cui è stata fatta questa scelta. A tra poco, buon ascolto. Left Alone, Eric Dolphy.